sono diverse, nel senso che una riguarda appunto il tentativo di esternalizzazione che va contrastato in tutti i modi, perché non è risolutivo, perché dimentica le responsabilità che abbiamo a livello globale. Ricordiamolo, allora l'anno scorso c'è stato il primo summit sui rifugiati e migranti, che è stato organizzato proprio sulla base della consapevolezza che l'86% delle persone sfollate in tutto il mondo sono ospitate nei paesi in via di sviluppo, quindi la parte diciamo più povera del mondo sta facendo gli sforzi di accoglienza maggiori. Rimandare le persone indietro, costruire muri in Africa, che peraltro vuol dire sottrarre fondi preziosi per la cooperazione e lo sviluppo, quindi per cercare di costruire delle opportunità per i giovani africani, fare tutto questo sforzo diciamo, che peraltro implica rimandare le persone in paesi che non sono sicuri affatto, dove i loro diritti fondamentali vengono quotidianamente calpestati. Ricordiamo anche il rapporto UNICEF che un mese fa ha segnalato che il 77% dei minori che transitano attraverso il Mediterraneo sono vittime di abusi e di spesso violenze. Quindi vuol dire che noi stiamo rimandando indietro le persone dove subiscono questi abusi. Questo è inaccettabile, proprio in virtù dei diritti fondamentali che abbiamo voluto mettere alla base delle carte dell'Unione Europea. Quindi da un lato bisogna contrastare questo tentativo e poi sull'altro fronte, quello della solidarietà interna, bisogna invece appunto contribuire a rendere il fenomeno assolutamente sostenibile e gestibile per tutti gli Stati membri. Questo finora non è stato fatto. Quindi certo, noi abbiamo dato un segnale che può contribuire anche, diciamo, speriamo, a invertire la retorica del Consiglio Europeo. Non sarà però facile, perché le resistenze si basano sugli egoismi nazionali. A qualche Stato membro sarebbe ovviamente comodissimo che le cose rimanessero esattamente come stanno, perché in questi anni, ricordiamolo, 6 Stati membri su 28 dell'Unione Europea hanno affrontato da soli l'80% delle richieste d'asilo presentate in tutta l'Unione. Premesso che l'iter che state seguendo è forse quello più corretto, quello più giusto, però tecnicamente paesi che hanno subito maggiormente il peso appunto del fenomeno migratorio, come l'Italia, come la Grecia, avrebbero potuto ritirare la firma da Dublino, come ad esempio qualcuno ha minacciato su Schengen? Io non arriverei a questo quadro che implicherebbe di nuovo andare verso uno scontro molto duro che mette a rischio anche il progetto comune europeo. Non c'è bisogno di questo, perché per un semplice fatto, quello che abbiamo votato e su cui le battaglie che abbiamo vinto, diciamo, e che hanno portato al voto di 2 giorni fa in Parlamento, si basano sugli articoli del trattato attuale. Cioè già il trattato europeo, gli articoli 78 e 80, impone solidarietà e un'equa condivisione delle responsabilità tra Stati membri in tema di asilo. Quindi non è necessario, diciamo, minacciare di uscire da trattati, parlamenti, eccetera, anche perché questo appunto è un regolamento europeo, non si potrebbe fare a pena di procedure di infrazione e quant'altro. La questione centrale è ricordare a tutti gli Stati membri che hanno assunto degli obblighi e che non si possono volere solo i benefici di far parte dell'Unione, ma bisogna anche condividere le responsabilità. È già scritto tutto nei trattati, non stiamo chiedendo di inventare nulla.